9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buona giornata di neve, buon martedì nevoso, e avete sentito la giornale radio quante circostanze nella vostra vita quotidiana cambieranno oggi. Oggi ci occupiamo di un problema che ha a che vedere con le intemperie, ma con le intemperie sull'economia e su segmenti di impresa, di attività produttive. Intemperie grosse sono quelle di cui parliamo a questi microfoni e in questo gruppo editoriale, da quando prima delle Lehman Brothers sui mercati finanziari ha cominciato a ballarsi una rumba pesante che poi è diventata la più grave crisi dell'economia reale del secondo dopoguerra. E in questa crisi, per la specificità del settore produttivo manifatturiero del nostro paese, per le caratteristiche che distinguono l'aggregazione di un così elevato numero di piccole e medie imprese sul totale delle aziende, eppure capaci di rispondere con fortissima elasticità al variare della domanda internazionale, eppure capaci di riposizionarsi verso un segmento elevato del valore aggiunto, come capitava nei 3 anni precedenti l'esplosione della crisi e faceva intravedere un futuro pieno di speranza, dopo tutto sommato, dopo i 2, 3, 4 anni di violente razionalizzazioni che erano state imposte alla struttura produttiva italiana all'ingresso dell'euro. E tutto questo, da un anno a questa parte, si deve porre dei pesanti punti interrogativi, perché quando si assiste alla riallocazione violenta di fattori di competitività, come sta avvenendo nel segmento manifatturiero, che si spostano sempre di più verso il Far East, verso il Pacifico, verso questa nuova ridefinizione di una cointeressenza economica tra la Cina, che ha sostituito la domanda interna americana con i propri consumi interni, e le esportazioni di tutti i paesi limitrofi, che infatti stanno crescendo l'export dal secondo terzo trimestre di quest'anno a ritmi molto intensi e con crescite record, per così dire creando insieme alla Cina, intorno alla Cina, un aggregato di sviluppo, di accelerazione delle proprie importazioni ed esportazioni bilanciate, che sostituisce il grande polo a due, Cina da una parte, America dall'altra, che andava avanti nei 10 anni, 15 anni prima della crisi. Ecco, di fronte a così violente riallocazione dei fattori produttivi, per molte imprese, per molte medie imprese che crescono bene, quelle del campione Mediobanca al quarto capitalismo, per tantissime filiere di piccole imprese italiane del manifatturiero, si pongono alcuni problemi fondamentali. E questi problemi fondamentali, non è affatto detto che l'imprenditore abbia gli strumenti da solo per poterli risolvere. E quindi viene il momento in cui una funzione essenziale, che è quella a cui dedichiamo la puntata di oggi, cioè la funzione della consulenza direzionale d'azienda, assume un'importanza straordinaria. Allora, abitualmente noi siamo un po' così, abbiamo un'immagine da film di cosa sono le grandi aziende di consulenza direzionale aziendale, e i grandi nomi, McKinsey, grandi nomi come KPMG, li colleghiamo ai grandi scandali come Enron, perché erano grandi gruppi che facevano insieme l'auditing, cioè il controllo sulla certificazione dei bilanci interni, e contemporaneamente danno un pacchetto intero di consulenze alle imprese su come organizzare le proprie funzioni di gestione, di produzione, di controllo di gestione, eccetera eccetera. E allora dobbiamo però ricordarci che abbiamo anche dei grandissimi maestri, dei grandissimi esempi, delle grandi scuole invece di consulenza aziendale italiana. E nella puntata di oggi, con la scusa di 2 libri che vi invito a leggere, abbiamo esattamente 2 di questi grandi maestri con noi, dei cui consigli tenteremo per voi imprenditori in ascolto, per così dire, di farvi fare tesoro. Ma leggete innanzitutto i loro libri. Io, prima ancora di presentarvi, vi presento i loro libri insieme a chi, come Fabio Tamburini, direttore di Radio Core, quindi del gruppo Sole 24 Ore, ha messo mano e ha realizzato uno di questi 2 libri. Quali sono questi 2 libri? C'è innanzitutto quello di Nino Lobianco, che è in studio. Buongiorno Lobianco. Buongiorno a tutti. E il libro è del Sole 24 Ore, si intitola Volevo fare il consulente, mezzo secolo di capitalismo italiano visto da dentro. Io vi posso garantire che è un librino molto rapido di lettura, perché sono poco più di 100 pagine, ma è veramente straordinario, anche perché parte letterariamente da un'idea di Sicilia che, se non sicuro, molti di voi che non conoscono Nino Lobianco ignorano. Devo dire che io, da torinese, sono molto fiero di quello che lui scrive di Torino e di come poi descrive il suo passaggio in Sicilia. Però attenzione, si parla di una Sicilia che era all'avanguardia in tutta Europa per quello che facevano nella consulenza direzionale d'azienda, sigle che oggi dicono poco quasi a tutti, come Isida, no? Esatto. Oggi ci si ricorda Nisida, una canzone di Bennato per l'isolotto fuori Napoli, ma ne parleremo con Nino Bianco. Poi, secondo libro, Wall Street, la stangata, così abbiamo imparato a non perdere più soldi. E in questo caso l'autore, oltre che Fabio Tamburini, che è con noi, buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti. E Gianfilippo Cuneo, un altro grandissimo nome della consulenza aziendale italiana, che adesso però gestisce fondi che investono nell'impresa ed è collegato con noi telefonicamente. Buongiorno Cuneo. Salve a tutti. Allora, comincerei da, da Ninolo Bianco. Andrei subito al nocciolo della questione. A me piaceva dedicare molto tempo all'evoluzione della scuola di direzione aziendale italiana, perché lei diventa un grande nome in realtà perché c'è una tradizione persistente. Stiamo parlando degli anni in cui c'era la grande scuola dei manager Iri, Stett, c'era quella dell'Olivetti, scuola del passato. Poi arriva il modello anglosassone, arrivano i grandi nomi della consulenza aziendale americana che sbarcano nel nostro paese. Lei però ha la forza di fondare un'azienda italiana che si afferma, poi negli anni, con il passaggio anni 80 anni 90, va insieme sotto, insomma, un grande della consulenza come Deloitte, poi trova la forza, trova la necessità, trova l'utilità di nuovo di spezzare questa alleanza e di rimettersi in proprio. Allora la prima domanda è, ma insomma, perché le imprese italiane, le piccole, le medie, perché questo è il pubblico a cui ci dobbiamo rivolgere oggi, dovrebbero trovare nei grandi nomi della consulenza direzionale aziendale, dopo questi disastri che da Enron fino al 2007 all'eccesso di finanza, a tutta l'attenzione sulla finanziarizzazione, a tutta l'attenzione su cose come le ristrutturazioni fatte dal private equity, di cui si parla molto e giustamente secondo me nel libro di Tamburini e Cuneo, perché dovrebbero continuare a servirsi da loro invece che da chi in Italia fa consulenza ma secondo tradizione, scuola e competenza italiana? La domanda è articolata ma è anche un po' complessa nella risposta, perché ci sono diverse preparazioni e diverse capacità e competenze nel mondo della consulenza, così come, se faccio un esempio, nella medicina. Allora bisogna capire se ti serve un cardiologo o ti serve un otorinolaringoiatra per essere curato, e quindi la piccola e media azienda deve capire che cosa gli può servire in questo momento, se ha bisogno di innovazione, se ha bisogno di internazionalizzazione, se ha bisogno di invece efficienza, se ha bisogno di trovare dei sistemi all'interno con cui gestire meglio amministrativamente, cose di questo genere. Allora, per alcune di queste specializzazioni, in particolare alcune attività internazionali di presenza nel Far East, ma anche negli Stati Uniti e così via, le aziende internazionali di consulenza, le grandi, possono rappresentare forse un differenziale, ma per tutto il resto, cioè quello che è poi legato più alla cultura del cambiamento nella situazione italiana, credo che società di consulenza più piccole e certamente considerate forse provinciali, ma con abitudini e conoscenze dirette del mercato e della situazione locale, possono essere molto più utili, cioè possono dargli un plus di cambiamento laddove invece delle formule standard portate dagli internazionali non sono o applicabili o non sono applicabili con grande efficacia nel nostro contesto. Cuneo, nel libro con Tamburini lei è molto severo nei confronti, da un giudizio abbastanza radicale su come esce il capitalismo anglosassone, soprattutto americano, dalla doppia crisi, quella finanziaria pre-Lehman e poi quella su cui si innesta la crisi dell'economia reale nel dopo Lehman. Tanto che nella prefazione, nella presentazione del libro di Lorenzo Pelliccioli dice: ma su questo punto sarei un po' meno radicale rispetto al giudizio che da Cuneo. Tutto sommato siamo nel capitalismo, restiamo nel capitalismo e tutto sommato sarà sempre comunque la matrice anglosassone che prevale. Perché lei dà questo giudizio? Con specifico tema non solo al modello di intermediazione finanziaria, che secondo me continua a essere quello del pre-crisi, visto che è cambiato quasi niente, quindi per questo sarei curioso di sapere da lei in realtà in che cosa possiamo vedere che c'è una discontinuità, perché nella discontinuità sì, avremo meno prodotti derivati su cui le banche fanno utili finanziari, ma continuano a fare soprattutto utili finanziari, perché invece che fare sui CDS o su qualcos'altro, ma comunque fanno carta per carta, perché questo si vede nelle trimestrali delle grandi banche dall'inizio 2009 fino a oggi, e non solo di quelle americane, a dire la verità, anche di quelle europee e anche di quelle italiane. Quindi perché esce poi così davvero, c'è la svolta secondo lei? Dunque, prima di tutto non penso che ci sia nessuna svolta, nel senso che non constato dei cambiamenti nella situazione. Recentemente sono stato 2 settimane negli Stati Uniti e mi sembrava di essere tornato a 3 anni fa con le istituzioni finanziarie che continuano a fare quello che sanno fare, hanno sempre fatto. Il giudizio negativo però non è sul capitalismo, che mi sembra sia l'unica formula che può sopravvivere e dare un valore ai popoli nel mondo, ma agli eccessi del capitalismo. Sostanzialmente, quando le aziende sono gestite nell'interesse di oligarchie di manager, come è la maggior parte delle aziende quotate americane, l'ottica di interesse dell'azionista piccolo, di minoranza, viene assolutamente persa di vista, e l'ottica di lungo periodo viene anche persa di vista, per cui questi manager fanno una serie di cose che non hanno senso altro che se uno non guarda il loro interesse nel breve termine, poi nel lungo termine non gliene frega niente a nessuno. Questo è quello che a me sembra sia inaccettabile. Tamburini, nei due libri, quello con Cuneo, cui avete insieme messo mano, lo ricordo, l'editore Baldini Castoldi, Dalai, e invece nel libro di Nino Lo Bianco, ci sono, per così dire, due giudizi convergenti sulle privatizzazioni degli anni 90. Sono molto simili i giudizi che vengono dati nei due libri, e ci sono due atteggiamenti, diciamo, diversamente graduati ma non troppo speranzosi verso quello che si può fare con un modello efficiente nella pubblica amministrazione italiana. Allora, sono due storie che in qualche maniera costituiscono la premessa della fotografia dell'Italia di oggi, cioè le privatizzazioni una grande occasione non ben gestita. Devo dire che su questo Lo Bianco è ancora più critico di Cuneo, se uno va a vedere testualmente quello che c'è scritto nei libri. E contemporaneamente Lo Bianco ha tentato anche nel 2001 di essere, si è fatto coinvolgere in qualche maniera in un processo di consulenza per la riforma della pubblica amministrazione, e nel suo libro racconta che poi non è stato attuato, per così dire. Fa gli auguri al ministro attuale, a Brunetta, non a Tremonti, però insomma una certa delusione e scetticismo. Nel libro di Cuneo si tocca anche questo punto. Sarebbe sbagliato pensare che ci sia chissà quale speranza che avvenga la svolta. Allora, la domanda che faccio a Tamburini è: quando si parla dell'interlocutore pubblico, di quello dopo la Prima Repubblica, quando si è preso atto che non aveva sta grande capacità di gestire, però per il momento, a distanza di 15 anni, né quando si è trattato di privatizzare, né adesso che si tratta quantomeno di far rendere efficiente con qualche modello gestionale preso dal privato la pubblica amministrazione, ci siamo ancora? Non ci siamo proprio. Certo, la pubblica amministrazione è bene che non prenda lezioni da come sono state gestite in Italia le privatizzazioni, perché il rischio è perfino di peggiorare. Ecco, io vorrei ricollegare questa tua riflessione sulle privatizzazioni con quanto è stato detto in precedenza. È mancato spirito critico anche da parte dei giornalisti, perché questo bisogna dirlo. È mancato sulle privatizzazioni, così come è mancato sul capitalismo anglosassone. In questo senso i due temi su cui ha aperto la trasmissione sono, a mio avviso, straordinariamente legati. Sono state le privatizzazioni in Italia, come del resto il mito del capitalismo anglosassone, due grandi bufale che sono state tirate ai lettori. Nel libro Cuneo, ma anche nel libro di Lo Bianco, è spiegato bene il perché della crisi del capitalismo finanziario anglosassone. In sostanza sono state raccontate delle grandi storie. È stato creato il mito degli analisti finanziari, delle agenzie di rating che giudicavano severamente le società, dei consulenti indipendenti nei board delle grandi aziende, dei revisori dei conti che analizzavano con grande scrupolo i bilanci. È stato creato il mito delle privatizzazioni che avrebbero risolto il problema di un'industria delle partecipazioni statali inefficienti. La verità era un'altra. La verità è quella che è emersa con i grandi scandali, a partire da quello di Enron che hai citato. La verità è che le privatizzazioni in Italia sono state un disastro, nel senso che hanno di fatto smontato delle aziende che avevano grandi pecche, avevano grandi limiti, erano le aziende delle partecipazioni statali, ma in sostanza distruggendo quel poco che c'era di grande industria italiana, e questo non è un dato positivo. Di conseguenza io credo che per primi i giornalisti, e qui mi mi assumo le responsabilità per quel che mi riguarda, proprio anche come categoria, dovrebbero fare uno sforzo di analisi e di raccontare la verità piuttosto che creare dei miti. Non siamo stati dei gran cani da guardia. No, e abbiamo contribuito a creare dei miti con delle realtà, dipingendo e teorizzando delle realtà che erano tragicamente diverse dalla verità. Ora abbiamo una pausa pubblicitaria, dopodiché riprendiamo con lo bianco culo, perché la mia domanda diventa a questo punto: mentre in un anno, da un anno a questa parte, tutti abbiamo ripetuto, le agenzie di rating che fanno il rating finanziario delle società, insomma, hanno molti difetti, non bisogna adottare solo Basilea 2 perché altrimenti poi le banche restringono ulteriormente il credito. Abbiamo appreso che poi i prodotti finanziari, quelli che avevano la doppia A, la tripla A, avevano un rischio sia da parte dell'emittente che del prenditore che non veniva inglobato in quel giudizio. Però attenzione, in chi ha fatto i consulenti d'impresa, cioè nei vari signori Lo Bianco e nei vari signori Cuneo, non erano quelli poi che anche alle imprese insieme gli proponevano in un unico pacchetto l'auditing, cioè il controllo sui conti interni eccetera, il processo organizzativo e gestionale? Non c'era anche nelle imprese qualche cosa di del tutto analogo ai finti giudizi per avere soldi che gravavano sui rating così ottimistici invece sul rischio della parte solo finanziaria? Eccoci tornati in studio, stiamo parlando in questo anno di difficile crisi di che cosa può venire dal mondo della consulenza direzionale aziendale alla crisi, come prospettiva per uscire dalla crisi di molti segmenti produttivi della manifattura italiana, che oggi hanno bisogno anche, insomma, di una riflessione strategica su come riposizionarsi su un mercato in cui si dislocano potentemente i fattori di competitività. Non conta solo il basso margine di costo verso il quale andare incontro, ma conta portarci il proprio maggior valore aggiunto, la propria visione di integrazione. E allora la funzione di chi è uno specialista dell'integrazione e delle discontinuità nella storia del business, dell'organizzazione aziendale, della sua gestione, del controllo di gestione, può dare una parola decisiva. Ma prima abbiamo messo sotto il microscopio i tanti difetti anche del mondo anglosassone americano della consulenza aziendale. Allora, avevo fatto una domanda prima dell'introduzione e di lì vorrei ripartire con Lo Bianco. Non è che anche le grandi società di consulenza vendevano la stessa cosa in realtà alle imprese, una specie di giudizio un po' drogato, mettendo insieme la parte dell'audit, del controllo interno dei conti, e dall'altra i consigli su come svilupparsi e su come gestire? Le società di consulenza sono molto diverse una dall'altra. Ci sono le società che fanno soltanto consulenza, ci sono società che invece hanno un panorama più vasto, un portafoglio più vasto di offerta, per esempio quelle che hanno l'audit, quelle che hanno gli affari fiscali, gli affari legali e così via. Allora dipende molto da chi uno ha preso come consulente. Se uno ha preso un consulente soltanto perché lo aiuta a superare certi giudizi sui suoi conti, perché fa una certificazione più, come dire, blanda o più gentile e gli dà più tempo per mettersi in ordine con gli adempimenti legali, fiscali, amministrativi, eccetera, allora questa tentazione, questo rischio c'è. Ci sono invece società che hanno deciso di essere soltanto consulenti e quindi che non intervengono sugli altri aspetti. Io per esempio mi sono sempre rifiutato di avere una presenza all'interno di altri tipi di attività che potessero in qualche modo creare un conflitto di interesse o perlomeno la tentazione di non essere, come dire, eticamente netti e definiti, cioè con un profilo nitido di indipendenza e di autonomia professionale. Quindi il rischio è presente, come esiste il rischio in moltissime altre funzioni non della consulenza, ma che dovrebbero essere preposte a garantire correttezza e pulizia di impostazione, e che poi invece di fatto sono per interessi privati disponibili ad avere un'attenuazione dell'etica che è richiesta e prevista. Teniamo presente che in Italia esistono una quantità di controlli, ma anche nel mondo anglosassone, nel mondo dell'economia, esistono una quantità di controlli sulla carta teoricamente tali da creare garanzie assolute per il pubblico. Però poi si è visto che non hanno funzionato, di fatto dal collegio funziona. Dei sindaci agli amministratori indipendenti. Certo, al limite fino alle aziende di rating che abbiamo visto sono poi pagate dalle aziende che loro valutano, quindi diventa molto difficile mantenere un'etica al di sopra di ogni sospetto e al di sopra di ogni tentazione. Quando voi leggete sui giornali le valutazioni fatte da grandi banche o da SIM o da gestori di risparmio che vi consigliano certi tipi di investimento e poi andate a leggere chi loro servono e che sono poi le aziende che spesso consigliano, anche se denunciano il conflitto potenziale di interessi, questa è certamente una manchevolezza e un grande rischio che corriamo. No, Cuneo, ma scusi la brutale domanda, siccome dopo le privatizzazioni, dopo le privatizzazioni bancarie, poi ci siamo trovati insomma una gran parte dei manager bancari di punta del nostro paese, giovani, preparati, per carità, sono i nuovi protagonisti dell'ultimo decennio che abbiamo alle spalle, venivano tutti da scuola di consulenza, insomma la scuola McKinsey per capirci. Allora, siccome continua a fare anche lei questa domanda, io ho l'impressione che in realtà il conflitto di interesse non dichiarato delle grandi quattro aziende internazionali della consulenza che offrisse insieme garanzia alla certificazione dei conti e offrisse le chiavi di sviluppo per relazioni, per capirci, molti segmenti di business, fosse molto simile al conflitto di interesse delle cinque grandi banche di investimento americane che avevano i ratios patrimoniali bassi perché il regolatore gliel'aveva consentito e facevano il più dei propri utili non dalle attività di banca commerciale, pur avendo poi alla fine, quando sono successi i guai, la garanzia di un intervento pubblico, come se si trattasse di banche commerciali che fanno i soldi con i depositanti. Allora, io ho l'impressione che le quattro grandi case internazionali e le cinque grandi banche di investimento fossero un po' due facce della stessa medaglia. Le chiedo, per questo, i clienti, sia l'impresa italiana, sia il depositante italiano, quando vede poi che è alla testa, credo un giudizio generale, io non sto parlando di Passera di persona, Profumo in persona, ma quando si trova che poi la classe di banchieri italiani viene di là, secondo lei non dovrebbe preoccuparsi un pochino? È così sbagliato? È una generalizzazione impropria assumere che quel modello ha provocato dei risultati, un po' criticamente, lei stesso è molto spietato nel giudicare i risultati di quel tipo di cultura di eccesso di finanziarizzazione, eppure proprio di lì, proprio da McKinsey, viene poi la leva di generazione dei banchieri italiani dei quali dovremmo stare sicuri. Lei che dice? Io non condivido assolutamente questo giudizio, il conflitto di interessi fra audit e consulenza è una cosa del passato, è finito praticamente con Enron e non ha mai riguardato né McKinsey né Bain né BCG. Per quanto riguarda invece i banchieri come Profumo, Passera o Massia che vengono da grandi società di consulenza, non vedo particolari scandali, anzi vedo un fatto molto positivo, che delle persone molto ben addestrate, molto ben preparate, poi vengono scelte per merito proprio, non per particolari amicizie e cose del genere, e infatti poi alla fine fanno bene, così Passera ha fatto bene alle Poste, Profumo aveva fatto bene nel gruppo RAS Allianz, e quindi sono persone in gamba che meritano di essere al posto dove sono e gestiscono bene. Vorrei però fare anche un'affermazione relativamente alle colpe dei giornalisti per quanto riguarda privatizzazioni e cose del genere. Beh, intanto i giornalisti potrebbero evitare di chiamare privatizzazione una cosa che non lo è, nel senso che un'azienda pubblica quotata non è un'azienda privatizzata, è un'azienda pubblica quotata, quindi l'uso proprio delle parole dovrebbe essere quello che caratterizza un giornalista, così pure non si possono chiamare consiglieri indipendenti quelli che sono nominati sostanzialmente dall'entourage dell'azionista di maggioranza o dall'amministratore delegato, quindi un piccolo contributo verso la chiarezza potrebbe servire a tutti. Ah no, su questo sono completamente d'accordo, in realtà se non c'è perdita di controllo non c'è privatizzazione, questo dovrebbe essere il criterio che viene utilizzato. Domanda per Tamburini. In realtà continuiamo a investigare oggi su perché, per quale ragione uno dei tante migliaia di piccoli imprenditori italiani, diciamo che sta sulla fascia intermedia per essere considerato medio, non è ancora entrato nel campione medio banca del quarto capitalismo, ma spera, se non ci fosse stata la crisi ci sarebbe entrato. Allora perché oggi dovrebbe, per esempio, per potenziare la propria dotazione finanziaria o per dotarsi di un accesso di visione aggiuntiva rispetto a quello di cui è capace, insieme ai suoi manager, fare toc toc alla porta di Gianfilippo Cuno per la parte dei fondi che gestisce, fare toc toc alla porta di Lo Bianco della sua impresa per dire aiutatemi voi. Ma se lo facesse non farebbe male, perché sono, mi permetto di dirlo in quanto li conosco da tanti anni, due persone di grande intelligenza e quindi c'è tutto da imparare conversando con loro. Io però aggiungo che se fossi un imprenditore come quello che tu hai descritto, a parte loro due, sarei sostanzialmente molto molto attento a seguire i consigli dei consulenti. Quindi io distinguerei tra le persone in gamba e la categoria dei consulenti. Per i primi grande stima, grande attenzione e hanno molto da insegnare. Per i secondi è un po' come i giornalisti, tutto sommato il mondo delle imprese se ne sta lontano, ha forse tutto da guadagnarci. Anche perché poi con la crisi di quest'anno molti manager, ahimè, buttati fuori, insomma licenziati dalle aziende, quasi uno su due, se non due su tre, da quello che leggiamo le statistiche che leggiamo su Sole 24 Ore, sono diventati consulenti proprio in quest'anno, è vero Lo Bianco? Siccome noi non abbiamo né albi né barriere all'ingresso, tutti quelli che non hanno un lavoro e che così si mettono sul mercato e non riescono a trovare un rimpiazzo al lavoro precedente si definiscono consulenti. Qualche volta fanno un po' di consulenza, nel senso che delle aziende più piccole o delle aziende che possono beneficiare della loro esperienza li chiamano, e qualche volta invece rimangono in attesa di lavoro. Credo che in questo momento il tasso di copertura del loro tempo sia piuttosto basso. Però per rispondere alla sua domanda, perché dovrebbero rivolgersi a dei consulenti delle aziende medie o comunque in crescita, che hanno una visione di espansione per il futuro? Ma sostanzialmente per due grandi aree di potenziale interesse. Il primo è l'innovazione. Innovazione intesa non soltanto in chiave tecnologica di prodotto, ma innovazione è come rapportarsi sul mercato, cioè come in qualche modo cambiare paradigma e non affrontare, così come si è sempre fatto, aspettando che finisca la crisi per ripartire come si era fatto in passato, ma cambiando paradigma e cercando di trovare qual è l'incrocio prodotto-mercato, molto più spesso prodotto-servizio, per riuscire a continuare ad avere un mercato e probabilmente approfittare delle grandi opportunità che ci sono in questo momento di prendere mercato di altri in Italia, di competitori italiani o di competitori internazionali. Il secondo grande filone in cui possono approfittare è l'efficienza. L'efficienza non è legata soltanto alla capacità di fare un prodotto con meno tempo, ma ormai il costo del prodotto o i tempi di attraversamento del prodotto nella value chain, nel flusso produttivo dell'azienda, rappresentano una quota, se non minimale, una quota certamente ridotta. L'efficienza è di sistema e quindi è nell'approvvigionamento, nella distribuzione, nei servizi collaterali che ti possono essere forniti, nell'aprirti a delle modalità di commercializzazione internazionale via internet. Cioè ci sono una serie di salti di opportunità e di discontinuità che molto spesso l'esperienza non basta, e l'esperienza precedente non è necessariamente il viatico per il futuro. Per il futuro, no, gli esperti di discontinuità servono, piccoli imprenditori in ascolto. Per aggiornamento vi riporto le dichiarazioni più recenti che il messo delegato di Trenitalia, Ferrovie dello Stato, sta rendendo a una rete radio concorrente, per così dire, ma siccome vedo che dalla maggior parte dei vostri messaggi siete molto attenti a questo aspetto, ecco le ultime parole pronunciate qualche minuto fa da Mauro Mauro Moretti, dice: la rete ferroviaria sta funzionando anche se con alcuni ritardi, ma ditemi quali paesi non ha ritardo in questo momento. Così, continua l'amministratore delegato di Trenitalia, se la gente preferisce che tagliamo 50% dei treni, allora lo dica. Non è che tutti i manager dei trasporti europei sono coglioni, questo sto leggendo la parola testuale, c'è un po' di nervosismo nelle parole di Moretti, come evidente, c'è un problema di cause naturali e bisogna con questo fare i conti. Poi, continua l'amministratore delegato, se dico alla gente che deve portare le coperte, tutti si mettono a ridere, ma se c'è una disalimentazione elettrica e il treno rimane di ghiaccio, è bene che la gente si premuri prima, sono banali informazioni di servizio. Io credo che si debba essere comprensivi verso lo stress di Moretti, ma credo che l'amministratore delegato debba capire che con queste parole non so quanta simpatia aggiuntiva da parte degli utenti sia in grado di canalizzarsi e catalizzare intorno a sé. Chiusa questa parentesi di aggiornamento, eravamo fermi con Tamburini che si era prenotato sulle parole di Lo Bianco, su perché il piccolo imprenditore deve rivolgersi a Lo Bianco, cioè a una scuola e a una tradizione di consulenza italiana. Io questo lo sottolineo perché, non perché sono autarchico, ma perché poi con Cuneo voglio tornare su questa questione del conflitto di interesse che riguarda il passato, perché a me, non lo so, Deloitte non lo fa più per le aziende quotate americane, ma continua a farlo però, la consulenza piena da auditing eccetera. Siamo proprio sicuri che sia, che riguardi il passato quel modello lì? Ma comunque, Tamburini. Ma c'è una terza ragione che mi piaceva sottolineare. In momenti come questi è importante, in momenti di crisi è importante per un'impresa, anche soprattutto di piccole e medie dimensioni, guardare ai mercati esteri. Ecco, per guardare ai mercati esteri in modo tale, parafrasando il titolo del libro, di non prendere stangate, anche il parere di consulenti può essere un parere importante. Guardare ai mercati esteri significa porsi il problema della massa critica, porsi il problema delle alleanze con un network di altre piccole imprese. Ecco, in tutto questo lavoro può essere prezioso l'apporto di consulenti in gamba. Ecco, quindi occhio alla scelta dei consulenti, possono essere utili. Aggiungevo la terza ragione, quella della internazionalizzazione dell'interesse verso i mercati esteri. Per non prendere stangate è bene sentire qualche voce in più. Cuneo, lei nel libro dice testualmente, a un certo punto fa qualche esempio, cita Marco Drago per esempio, dice: però per un Marco Drago, cioè per un esponente di una famiglia imprenditoriale che è arrivata al terzo grado, continua a essere eccellenza. È l'eccezione, non la regola. Cioè la regola continua a essere quella di figli di imprenditori che credono di poter avere le qualità per fare manager, dirigere, gestire eccetera eccetera, in realtà non ne hanno la qualità, fanno il male dei propri consorci, dei propri dipendenti, della propria azienda. Su questa base, certo, di giudizio non è molto facile pensare di averli clienti. O è il contrario, o è proprio sulla base di questi giudizi che nell'evoluzione temporale lei ha visto che poi gli imprenditori di seconda, terza generazione se ne rendono conto, dicono: sì, ha ragione Cuneo, mi dia una mano lei. Un consulente è tanto bravo quanto l'imprenditore o il manager che lo chiama, nel senso che un imprenditore deve chiamare un consulente per avere delle risposte nuove e non semplicemente per confermare le proprie idee. Allora, ci sono dei figli di imprenditori, che imprenditori essi stessi non sono, in quanto sono soltanto dei capitalisti, che si rendono conto della propria incapacità di fare il manager e chiamano o i manager a gestire le proprie aziende e chiamano dei consulenti per capire meglio che cosa bisogna fare, non avendo essi stessi le competenze. Dopotutto nessuno di noi ha tutte le competenze che servono per fare qualunque cosa. Quindi io trovo che in Italia ci sono tanti figli di imprenditori che realisticamente capiscono che devono fare gli azionisti e non devono fare i manager. Poi ogni tanto c'è qualcuno bravo come Marco Drago che riesce a fare tutte e due le cose, e io dico sempre: questo è un cattivo esempio, perché dà l'illusione a tanti altri che bravi non sono, che possono fare anche i manager. Manager si diventa, non si nasce. Noi avremo bisogno di intermediari finanziari e interventi di rafforzamento del capitale di rischio delle imprese italiane, che sono tradizionalmente un po' sottocapitalizzate, anche se recentemente ho visto che c'è una ricerca di RS di Mediobanca che dice che poi è un luogo un po' comune questo della sottocapitalizzazione delle imprese italiane rispetto a quelle francesi e tedesche. Ma partiamo da questo presupposto: noi siamo un sistema troppo bancocentrico, abbiamo bisogno di investitori istituzionali. Ultimamente, tra i miti rivisti della crisi, c'è anche quello di come il private equity si è comportato in Italia su tante piccole imprese e medie imprese italiane, pensando troppo alla massimizzazione finanziaria, mandando manager giovani incapaci di gestire davvero le specificità del settore in cui lavora l'azienda. Lei stesso, nel libro con Fabio Tamburi di Wall Street, su questo dà delle analisi critiche, eccetera. E quindi anche il private equity in Italia è un po' da rifondare e da rivedere, ma allora, come la facciamo questa finanza per l'impresa se non passando sempre solo attraverso la banca? Come tutte le cose, ci sono gli eccessi che possono, che devono essere stigmatizzati, e ci sono invece le situazioni positive che, nelle quali imprenditori in gamba si sono avvalsi del private equity per far crescere le proprie aziende e soprattutto per valere di più di quanto sarebbero stati capaci di fare da soli. Allora, io credo che il problema della sottocapitalizzazione di moltissime aziende italiane non è tanto un problema di indisponibilità di capitali. I capitali, quando ci sono prospettive di rendimento, si trovano sempre. È piuttosto la storica diffidenza degli imprenditori o dei capitalisti italiani verso l'apertura del capitale. È chiaro che l'apertura del capitale richiede una cosa fondamentale: i capitali si attirano, ma si devono anche lasciarli uscire con delle prospettive di rendimento. Se uno vuole mantenere l'azienda nel patrimonio familiare come se fosse una villa di famiglia e non pensare nemmeno mai lontanamente di poterla vendere, è chiaro che non si attira nessuno. I fondi di private equity non sono nel mondo degli investimenti per fare investimenti, sono per uscire dagli investimenti. Fare investimenti è la necessità, diciamo, per poter uscire, non per il divertimento. Quindi la sottocapitalizzazione è colpa della chiusura delle famiglie o degli imprenditori. Sta cambiando, perché è chiaro che adesso, con questa batosta che molti hanno preso, molti imprenditori o capitalisti si pentono di non aver aperto il capitale negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, però si rendono conto che questo è il momento per crescere comprando magari concorrenti in altri paesi. Farlo soltanto col capitale messo a disposizione delle banche è o impossibile o troppo rischioso. E quindi oggi, molto di più che in passato, constatiamo una disponibilità di aprire il capitale accettando le regole di chiunque sia un investitore finanziario, cioè la regola dell'uscita. Certo. Domanda per lo bianco e poi domanda finale, brevi entrambi a Tamburini. L'etica quanto ha contato nelle scelte di alleanza e di rottura di alleanza che lei ha fatto facendo il consulente? Quanto ha contato nella capacità di saper dire a un cliente: no, questo che mi chiedi non te lo posso fare? Lei fa diversi esempi, adesso non voglio farla entrare nel merito di una vita di giudizi anche su molte grandi aziende italiane con cui ha lavorato, ma dovesse dire una parola su questo, perché lei capisce che chi ci ascolta non pensa che l'etica sia così importante. No, l'etica è un problema collettivo e anche un problema individuale. Collettivamente mi pare che ci siano state diverse situazioni sfrangiate, direi, delle constatazioni che in qualche modo, casi finiti clamorosamente sui giornali, mostrano una caduta di etica importante nel paese, e non sembra che il dopomani pulite sia migliorato molto. L'etica individuale riguarda molto ognuno di noi. Io personalmente credo che, per la formazione che ho ricevuto, ho fatto molto spesso delle scelte di non convenienza, cioè delle scelte in cui ho perduto. Quindi l'etica le ha fatto dire dei no? Assolutamente sì. Fabio, l'etica, nel descrivere, come hai fatto in questo libro con Gianfilippo Cuneo, che si può imparare dalle fregature che abbiamo preso, forse ne abbiamo anche un po' date come giornalisti, abbiamo detto prima, e quindi la lezione per te come direttore di un'agenzia di informazione economica oggi è: stai più attento diversamente da prima, oppure sei sempre stato attento ed erano gli altri in maggioranza che erano fetenti? Di etica non ce n'è mai troppa, e anche di spirito critico. Purtroppo etica e spirito critico mediamente non abbondano. Ecco, col libro che abbiamo fatto, ma lo ritrovo anche nel libro di Lobianco, è un piccolo contributo, piccolo ma credo importante, affinché ci sia più etica ma anche più spirito critico. Sono due cose che, ripeto, non bastano mai. Ripeto i due titoli: Gianfilippo Cuneo e Fabio Tamburini, Wall Street, La Stangata, Saggi Bassini Castoldi da Lai Editori. Cosa abbiamo imparato per non perdere più soldi? Invece, Nino Lo Bianco, Volevo fare il consulente, mezzo secolo di capitalismo italiano visto da dentro, edizione Il Sole 24 Ore. Ringrazio in regia Filippo Aureggi e redazione Giulio Scotti. La linea generale radio, appuntamento a domani. 9 in punto, la versione di Oscar. Yeah.